faccia, da vecchio gaucho sul set dell'ultimo Chuck. Seduto lì, quasi in disparte, al tavolino di un bar, sicuramente era lui la star. Ci sono facce che non dicono niente, facce che scompaiono in mezzo alla gente e sembrano tutte uguali, come pietre di fiume su cui il tempo passa come la corrente. Ma certe facce da sole riempiono la scena, e sopra puoi leggervi una vita. La donna entrò quasi correndo, sembrava proprio Bette Davis in Waterloo Bridge. L'uomo ascoltò quel che la donna aveva da dire da un po', cose che andavano dette. La radio intanto suonava da un angolo, Answer Me Oh My Love del grande Nate, poi bevvero di quello buono, delle grandi occasioni, perché una storia stava finendo in una nuvola di fumo. Lei si alzò e sopra le note di una pubblicità si squagliò. Non era un tipo sentimentale, uno che può perdersi in vicolo del Moro. Lo immagini sopra una nave in mezzo all'oceano che sta doppiando il Sierra verso Montevideo, che getta sul fondo del mare una piccola moneta, sognando la vacuità di un'altra vita.